con Gianfranco Cabiddu, co-regista del film Il flauto magico di Piazza Vittorio, al cinema da giovedì 20 giugno 2019. Gianfranco, ben trovato. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Beh, Lo presenti questo lavoro? è un lavoro, diciamo, semplice ma anche completo, cioè un film intanto musicale, per cui è suonato e cantato, è ballato quasi dall'inizio alla fine, con molte sorprese, molte invenzioni, sia sul piano degli effetti visivi, sia sul piano proprio della drammaturgia. Il soggetto, che è di Fabrizio Bentivoglio e Mario Tronco, ha pensato però a un film, quindi è in tutti gli effetti un film, anche se deriva da un fortunato spettacolo teatrale dell'orchestra di Piazza Vittorio diretta da Mario Tronco. Per cui, diciamo, ho ereditato un gruppo di cantanti, tra virgolette, attori, che era ben rodato dentro le parti che poi interpretano nel film. Cosa ci racconta questo film? Beh, intanto è Mozart, è riletto come fa l'orchestra di Piazza Vittorio musicalmente con una grande libertà e quindi mischiando musiche che vanno dal rock alla samba, alle musiche africane, eccetera. Poi è un Mozart che esalta la fratellanza, in qualche modo la comunione, per cui è un musical, se vuoi, multietnico, perché si parlano e si cantano 8 lingue diverse, ci sono tante razze diverse, perché ci sono appunto attori cubani, italiani, africani, europei, quindi insomma è un melting pot, come proprio lo è anche Piazza Vittorio nella realtà, cioè una zona multietnica che è un po' il simbolo di ogni città europea multietnica nel quotidiano, nel suo quotidiano, che la notte si anima questa piazza per diventare una piazza, diciamo, fantastica, dove è possibile questa favola, che come tutte le favole c'è uno svolgimento classico, cioè una principessa chiusa in un castello, la lotta tra il giorno e la notte, il bene e il male, per poi finire come in una favola, dove la principessa appunto se ne va con i due cavalieri, il principe che l'ha liberata e il suo amico Papageno. Quindi, diciamo, rispetto all'opera di Mozart ci sono delle variazioni, perché non c'è Papagena, ma mantiene quello spirito e come in Mozart è un lavoro molto popolare, nel senso che veramente piace ai bambini e ai più grandi, è una favola, ma col fondo veramente di questa lettura in qualche modo multietnica e multiculturale, soprattutto della nostra società di oggi. Che impressioni ne hai ricavato immergendoti in questa storia? Beh, io ho un passato, diciamo, da musicista mancato, per cui è stato un po' un invito a notte improvvisare, perché poi al cinema è sempre molto difficile improvvisare anche tecnicamente, perché sì, si può improvvisare ovviamente dentro i limiti di una scena, ma improvvisare come tipo di visione, quindi provare a cambiare le cose, superare le difficoltà anche tecniche con un colpo più di fantasia che di tecnica, secondo me è stato veramente molto stimolante, molto, molto gioioso. È un film che mentre lo facevi ti sembrava anche tutto estremamente pericoloso, perché appunto le cose sono un po' al limite, per cui potevano anche, diciamo, risultare ridicole e non poetiche come vogliono essere, per cui insomma è stato bello farlo e anche pericoloso in qualche modo, ecco. Come l'arte dovrebbe essere sempre, insomma, un po' pericolosa. Che tipo di uscita avete pensato? Il film esce in estate, in questa estate dove tutti puntano in una, come dire, in una rinascita delle sale, in un tentativo di allungare la stagione, diciamo, del cinema negli altri paesi, sia in Inghilterra che soprattutto in America. L'estate è il momento dell'uscita delle prime, che da noi è Natale. i film più forti di solito li fanno in estate, forse perché hanno tutti l'aria condizionata, non lo so. Diciamo c'è quest'onda e quindi c'è la speranza di incontrare un pubblico disposto a seguire questa favola. L'uscita sarà in tutte le capozona, so che ci saranno in giro 20-25 copie, e poi quello è un territorio dove ovviamente noi autori non abbiamo molto a che fare, se non incrociare le dita e accendere dei ceri, ma da di fuori, perché il mondo dello sfruttamento persegue, diciamo, una strada che è diversa da quella del fare il film, insomma. Immagino che diverse proiezioni saranno accompagnate dalla vostra presenza. Sì, io spero proprio di sì, di seguirlo quando ci viene appunto richiesto, siamo invitati, ma soprattutto stanno arrivando molti inviti per avere anche il concerto subito dopo, che è una cosa ovviamente molto sfiziosa, perché tu vedi praticamente i protagonisti che quei costumi, che sono attori a tutti gli effetti del film, e poi li vedi su un palco fare il loro vero mestiere, che è quello di suonare e cantare, insomma, per cui sono arrivate già delle richieste in questo senso e speriamo si concretizzino, perché è anche un modo per attrarre pubblici diversi. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Il flauto magico di Piazza Vittorio al cinema da giovedì 20 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Gianfranco Cabiddu. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo. Un saluto a tutti. A presto Gianfranco, ciao. Grazie.